l'alimentazione non assorbe nulla, con questo apparato non assorbe nulla. Ma perché ha fatto così? Non so, come l'ha accesa? Non può dirci a qualche cosa causata. Ho abbassato il volume e mi ha fatto quella fine, poi l'ho rispento, l'ho riaccesa e non ha fatto più. No, no. Vuol dire che sia una cosa normale, me. Non so, non ho mai fatto. Andava anche meno watt, da lì me ne sono accorto, andava a 2000 watt, una cosa del genere. Ah, che forse appena che l'ha acceso, forse che l'ha preso. Boh, non lo so. Boh, va bene molto, ci sì. Sono qua, mi ascolto, un pochino. Ti ho entrato. Chi è entrato? Nessuno. Va bene. Va bene. No, ogni tanto già c'è qualcuno, Posso aiutarlo? Deve entrare anche lui, già seminocchi. Vabbè, quello sì, chi vuole entrare entra. Ragazza. Io come ti ho sentito ti ho risposto subito, se ci sono io già rispondo. Sì, ma non dovevi parlare perché mi stavo mettendo le cuffie, se no chi ti intende da voi e dobbiamo rompere la balla. Mi ha pagato, poi io non le so queste cose, non so se ti stavi mettendo eccetera eccetera. No, come ti ho sentito subito ti ho subito risposto, è così che si fa. Ma io non sto dicendo che tu lo sapevi, sarebbe stato meglio non rispondere perché hai fatto e gridato. Ma gamba. Infatti adesso metto prima le cuffie e poi entro. Allora ti ne appunti, appena alzato il volume. Non vedo che era sul volume. Vedo che era sul probabilmente se metti una colonnina più manna che questa di attaccato a me mi dà ciaffa. Non è così, non è come dici tu, non te manni nessuno a me. No, ma qui io te manni nessuno, ma io evito, non mi piace a me creare problemi, farti vedere dagli altri che non sei la persona che pensano, cioè io sono fatto così. Io invece la penso diversamente, mi posso vedere là e mi posso rispettare. Qua le giure persone manesche le giudicano male, non è che le giudicano bene. Alla te ce la pensano diversamente, qua è diverso. Vabbè, ognuno la vede come vuole, come è, giustamente. Se come la vedo io a me non me ne era fottito nulla. A me tu mi rispetti e basta. Il modo di opinione è diverso. Beh, ognuno ha la sua opinione. Tanto quando metti le mani addosso e cose c'è sempre casini e basta. Perché non fai altro che accumulare denunce, questo, quell'altro. Ci regala dopo di buone di Trento. Le buone di Trento, ho fatto rispettare. Voglio lasciar perdere. Cioè, va preso così perlomeno. Ma poi, un paio di caffiotti non penso che ti conviene dentro. Vabbè. Io ho 50 anni, adesso tu ne hai 25, quanto ne hai? Abbiamo un modo diverso di pensare. Vabbè, io la penso così. Io non sopporto l'arrampimento di palline, dai. La verità tua, vabbè no, ma fino a 18 anni, 19 anni, io sempre fa rendere. Non ne ho mai tratto nulla, tranne che da coi, pipigliani e via. e poi mi ho fatto reso per coscienza che cavolo me lo va a dire fare. Gappa gappa, vabbè, io non lo faccio così, tu non rompi la scatola a me, io non rompo la scatola a te, è quello, quando mi metti di piedi io ripeto un po' a te. Beh certo, il rispetto deve essere reciproco, quello senza ombra di dubbio. Però sono sempre nel fare di chi uno si evita e mette. Lo so, lo so. E vabbè, così è il modo di vedere di ogni persona. Vabbè, ma si sa chi è quello giusto e quello sbagliato, però... Io la vedo in questa maniera. A me sinceramente mi piace ragionare. A Gerusalemme e Paghisce non devo trattare, ma ragionare, perché con quella gente lì non si ragiona. Io pagavo. Io invece no, non ragiono invece. Ho un modo diverso. Io soprattutto c'è ragionare se c'è una certa educazione, ma quando non c'è stata una certa educazione allora non ragiono più, e quello è. Lo so, perché quando uno vive nell'ambiente dove hai vissuto tanto è sempre così, è sempre la legge del più forte, è sempre quello che se non ti fa rispettare ti cazzicheggia e tutte queste cose. Che io ho vissuto un ambiente diverso, capito? Le persone erano educate, ti rispettavano, le facevano, non ho mai vissuto un ambiente che magari ti devi autodifendere. Lo so. Però che bisogna farsi rispettare, altrimenti può mettere in capo. Anzi, una cosa ti dico, se sbagliavi ti correggevano anche quelli del vicinato. Se ti vedevano facendo una cosa non devi fare, dice, anzi, guarda che lo dico a fa male, comportati bene. Chiappa, io che lo dico a tua mamma, sì, ne ci risulta, ne ci. Però dopo che ne ci risulta, subito il dispetto. Lo so, un diverso modo di vedere le cose, la spignoranza. Non è ignoranza, non rispetto è questo. È un modo di vedere diverso. Ignoranza. Ignoranza non fa a parere mio, poi non so, non fate mai mettere le in testa. Vedete, possiamo stare sino a domani a ragionare, ognuno la pensa a modo suo. Ognuno la pensa a modo suo, sì. Io vivo una volta solo e voglio vivere bene. Pure io voglio vivere bene, però i beni in capo non mi piacciono, quello è. E così è basta. Che piante di bene in capo, nessuno piante. È così, vabbè, ognuno c'è il modo di vedere di fare. E perché? Quello lì deve essere uno di quelli abituati a vivere senza di bici, un suo simile. Ah, perché non se ne vale? Di un passore. Eppure avrebbe cercato pure di applicare questo. Basta un giorno te lo guardo, te lo faccio vedere. C'è la gamba. Perché io conosco tanta gente, io vedo lo conosco. Ah, non penso. Vabbè che lavora in un posto. In un posto di infiammabile. Ma da poco, c'è quello lì. No. Vediamo, una ventina d'anni. Qui stava con la mamma, poi si è sposato e ci ha mandato via il fratello che aveva con loro. E si è messo con la moglie. Ci ha mandato il fratello da casa. E allora? rispondi da casa, cercati lavoro e vattene via, che qui non ti voglio più. E magari chi sarà pure bravo, così è. Fratello, un po' inganno. Chiaro. Che se uno trovasse non ha cosa deve fare. Magari ha stato in carriera, che ha il suo paraccio. Si sta portando fuori. Ma si è sistemato un po'. Sì. Ti spiegherò cosa fa. È un professionista, fratello. Come gli ho detto? Gli gioca a pallacanestro, capito? Non si ha. Adesso se ne frega di tutto. Mi ha fregato, al minimo non manda manca a tapparlo. Qui non si possono vedere. Il fratello non lo può più vedere quando lo mandate via da casa. Fregato. Adesso è miserabile. Ma la casa cos'era? Cos'era? Se tu era. La casa so che l'ha presa lui, perché la mamma l'avevano sfrattata e se ne è portati a casa sua. Poi quando è morta la mamma non l'ha più voluta. Che fregato. Se per dare negativo una cosa del genere non l'avrei mai fatto. A mio fratello soprattutto. Ma vai da boh. Di cent'anni. Ma un fratello mai fatto l'avresti? Manco a pensarci. Se un conto se se ne vuole andare lui che già comincia a stare bene. Se una persona brava che non disturba è cosa, perché non tenerlo anche a lui? Che contribuisce, magari fa qualche lavoro, contribuisce. Chiede se lui a cui va non lo vorrei a mezzo di più. E che appagata. E invece è troppo bravo, altrimenti l'avrei barrato la faccia. Vabbè, la casa era sua. Solo che un altro del genere è un appettare si sbatte così. Sì, non è giusto. Ma la casa era sua, però il segno gliel'avrei lasciato, fatto a fratello. Sì, il fratello è bravo, da giocare le cose, quindi guadagna bene. Perché fa la faccia sua. Poi se non me lo consegna o in pino. Non me lo ricordo, però è in altra categoria. Ma quella di Sassari. Mi pare di sì. C'era Dinamo, per dire, in Serie A. Mi pare che sia la Dinamo, la Serie Mosca. La Dinamo è Banco di Sardegna, che è Serie A. Allora, non mi ricordo se che scuola, ma so che è un bel contatto. Scappa. La squadra di Caspettina, chi sa, rappresenta una buona cosa sul Sassari? Vediamo chi c'è in Serie A alla stragrande. Cavaca, io lo so, ma a quanto pare non so se è avanti. Fregata. Ma che fregati bene. Volevo il campo più grande, non so che cosa. Volevo giocare. Volevo il campo più grande. Ah, il campo più grande del palazzetto. Io. Beh, ne occorre, perché insomma giocare in Serie A significa portare anche più persone. E portare anche gente che consuma, che va in albergo, che qua, che là. Poi tutto lì è vicino. E invece Marini. Tu l'hai mai visto dentro quell'albergo di Marini? È un bel bello. No. Io sì, mi sono andato a una riunione. Ragazzi, mai. Perché fa anche riunioni, c'è le sale riunioni, no? Non abbiamo preso un affitto per una riunione. Capo, l'avete preso in affitto qua a Sassari? Per fare la riunione. Ma che mai non venire a Porto Torre? Sì, ma non c'è tra nulla con Porto Torre, è mica una riunione di lavoro. Ah, che riunione condominiale? No, di Herbalife. Ah, ecco. Ma quindi, siccome c'era un bel di gente, allora abbiamo fatto lì. Poi abbiamo fatto il Monte Raggi un bel di volte. Ce n'è spazio lì. Faccio il Monte Raggi. Sì, già avevo uno sul padrono già. Un guardo. Come farlo? No, non ce l'ha più lui. Ma vende? Va va. Ma ci va là, sul a Pasqua. Il puntato ce l'ha ancora. Ma quello lì l'ha venduto, quanto ho capito io. Quelli erano i cugini di Giancarlo, lo sai? Però no. Sì, Perché noi pagavamo a fine mese la benzina dei mesi. Ah, andavate lì, andavate. Sì, a lavare, a mettere le gomme, la benzina, tutto. E che pagava? Già va bene. Poi a fine mese pagavamo. Perché fa dalla mano meglio dall'altra. E il babbo era in gamba, no? Io il padre non lo conoscevo. Non me lo ricordo, perlomeno. Non mi ricordo quello come Maffetti che lavorava lì. Morto. Chi? Padre di quelli lì. Ah, ma quello in Maffetti no. Ma ammetto che una busta è entrato in Continentale dal dottore. Senza fare via, senza niente, ho ordinato le medicine, mi potete dare le medicine che mi servono. E questo qui gli ha detto, scusi dottore, aspetti un attimino, c'è gente prima di lì. Ma io gli ho ordinato per telefono, questo per l'altro. Se ne è bisogno visto, mi troveremo da farlo, ha detto, ascolti. Ha poco da fare per potere, noi siamo salvi, ci abbiamo il sangue che ci scorre dalle vene, siamo caldi di sangue, stia attento, gli ha detto, e qua abbassi la cresta. Se vengono in giro, e quello gli ha detto, vi denuncio tutti se muoio, soffro di attacchi di angina, denuncio anche il dottore, ma se lo do, ha fatto un casino. Se vai qui va. Io le ho già detto quello che le devo dire, adesso me ne scuro fuori, perché se no mi vengono i 5 minuti. Ah. Mi siedo pure, amico. Ma come fa? Tu lo ricordi chi è? Quello vecchio anziano con i baffi. Quello vecchio, ma lui che non c'è il padre di loro? Ma non so se quello è il padre. Era un anziano. Si è sempre buffumente. Ehi. Si è rubato. E lui si è rubato. Stai descrivendo ora che sì. E chi sono che sta dietro sempre buffumente, bassottino. Cioè non era tanto alto. No, questo qui è alto e grosso, Chiaro. Non me lo ricordo bene adesso, lo sai, perché è morto già un po' di anni. No, ma quello non è morto, non è morto. Si sì, zucchende già. Se abbiamo potuto fare qualcosa, guai. Marco, sei in campagna, non ti rompere le scatole nessuno. Ma che, mi era accontentato anche di averla. Anche una bella schiera, però un cazzo indipendente, a me non mi rompe le palle nessuno. Sì, ma schiera ci sono anche gli altri. Sì, ma è diverso già. No, non è vero. C'è il cugino di mia moglie che ha dovuto dare il cane, lo sai. Perché quello a fianco non voleva quasi ammazzare, ha messo la medicina per gli scarafaggi, e la stava per leccare, l'ha salvato così così. Si è piazzato un bel cugino di Dio a Giovanni Troncarussi. E se permetto di più la denuncio. Miserabile, come mai non pensa che c'è un animale? Se non me lo porta via quel cane, la faccio io una denuncia, mi ha detto. Non vuol fare Buriani a qualcuno, e no, quindi conosci pure tu. Buriani toccare un cane, a Giumai non pigliava la cesta. ma a te non l'ho dovuto dare, l'ho dovuto dare per evitare, perché stavano per arrivare le mani. Vabbè, c'è i vicini che ti scassano le palle, però infine, cioè, hai poco macchina, hai il tetto tutto il tuo, cioè è tutto tuo, hai. Sì, ma non è la pace, è quello lì, è quello che cerco io, un po' di pace. Non voglio nessuno che mi comandi, che mi rompa le cazze. Non so già, non so, purtroppo. Chiedo, guarda, sto venendo a comprare, cercherei di prendermela un posto un pochettino, che siano un pochettino distanti le altre case. È un po' isolato. Ragazza, che sia un pochettino vicino da Sassari, che non sia troppo vicino alla strada, ma cosa? Galluca che pone su degli sproppi e cazzate varie, che sia un pochettino all'interno, mentre le campagne sino appena appena lontano. Così vuole. Così è bello, almeno puoi fare che ti piace, poi muore la musica tutto fumo, se ti vuoi sbizzarrire, puoi fare feste, puoi fare tutto ciò che ti piace. Oh già. Cosa? Sono delle condanne il condominio. Beh, e si paga profumatamente. Bisogna di... Cioè, un minimo, cazzo, una volta al mese, sempre di na, cazzo. Dove chi tu, cazzo, mi c'è da chi tu, dobbiamo rifare di na, no? Ma vaffanculo. E adesso c'è tutto l'impianto elettrico a cosa? A norma che dobbiamo fare. Cava, è di na. Canto di voi, minimo usare a casa 200 della famiglia. Sempre di là, sempre un accassamento di palle. Casino sì, so condanne, so, secondo me. Ragazzi, purtroppo non venne moneta, altrimenti non è stato vivo, penso, no? Adesso mi questo palazzo di Fontana sta facendo tutto quanto nuovo, lo sta facendo, adesso quanto risulta a capo, non è bello mai sentire lei. Ma morire, cazzo c'è uno non ha, che magari ha avuto spese, come intende che fa? Che fa che fa? Oh, sono sempre casini, insomma, mamma mia. Poi c'è casa tua, se non li vuoi va, non li fai, se te la vuoi va, te la vai. Ma quello è il bello. Non viene nessuno a dire, ma ecco, non so, lui dice, ecco, fa una cosa, sta meraviglia, un gancetto va, sa mai che... te la vuoi pitturare tu, te la pitturi tu, piano piano, e te la fai come si deve. E cavolo, però penso che ci sia più soddisfazione anche. Perché ci puoi fare il giardinetto, tutto quello che ti pare, cabudui. Ma proprio per battonare la vita devi ponere lo stereo tutto il volume, cioè, alla fine si deve pigliare la macchina, ma me ne infischio, cioè, andare a fare commissione, ma che attaccando pro righi, cioè, c'è la faccia, cioè. Non so come se ti puoi piantare un alberello di rubiante, esatto, così lì. Ti puoi pure quattro fave, quattro cazzate, il fatto a casa, e ti lo fai. Allora, faccia, se buone pure a casa l'albreco, cioè di sì aperto anche, cazzo, bene chito, io che siamo due per secchi, ho visto che sacco. Cioè. Poi per piazzare una piscina da fare un piccinetto, poi fare un sacco di cose. Così sì, è bello, ma non che sia molto lontano da Sassari, mi interessa tipo Bundi Bundi, tipo Rocca e Paccata, in Chiva. Cazzo, ma ti sarebbe bello, vedi? Appena dentro l'interno, così. Non ti rompo le balle nessuno lì, ui, fai lo che vuoi e basta. Belle zone quelle. Che fragata. Ehi, ci sarà da prendere, cioè, prima volta per uscire ci sarà da prendere la macchina, però una volta che arrivi qui, ciao, relax. Vabbè. Intende a Guido a volte, non intende Guido un cazzo che cude Guido che a fare un'ora a mare, è un casino. E tu, io ti saluto, è arrivata la fatti di calci, sentiamo, e buonanotte a te, a tutti gli amici stanno all'ascolto, mi sto mezzo drummendi. Ciao, buonanotte di nuovo, ciao. Ciao, buonanotte.